Quindi gli stipendi che erano in lire diventano in euro, diminuendo il potere d'acquisto. E con questa diminuzione del potere d'acquisto, quello che le persone sono ritrovate a fare era ricorrere ancora di più a un indebitamento e per poter mantenere le proprie spese come erano prima, ma che in questo momento sono al di sopra delle loro capacità di reddito. E quindi indebitandosi ancora di più. Questo risulta poi in qualche modo pericoloso e crea ancora più disuguaglianze, soprattutto nel settore immobiliare. Comunque in quegli anni inoltre diciamo, la concezione della casa è quella di un investimento estremamente sicuro e quindi molte più persone vogliono diventare proprietari di casa, ma riescono a diventare proprietari di casa chi ha già boh, forse qua mi sto un po' perdendo, non so cioè, quanto andare avanti negli anni. E comunque, quindi vai. No, perché poi continuiamo ad andare avanti, però forse ci sta una domanda che potrebbe essere tipo, questo a cosa ha portato? Cioè, Secondo te questo tema è concluso o lo volevi concludere in qualche secondo me modo? questo tema è concluso, quindi c'è un forte indebitamento. Tu che Sì, no, dici? va bene. La cosa Poi della parliamo di casa disuguaglianza, sociale, cioè, poi tu li fai sulla cioè, disuguaglianza. che compra casa, chi già ce n'ha una, chi non ce l'ha, poi Quindi, dopo. ok, quindi c'è questo grande accesso al credito che è finalizzato prettamente al comprare casa, perché la casa viene considerata un investimento sicuro, perché negli anni aumenta il valore della casa, si sa che questo valore aumenterà e soprattutto è un'eredità per le generazioni future e riuscire a pagare un mutuo è molto più conveniente che pagare un affitto, perché un mutuo è qualcosa che prima o poi nel tempo finisce, mentre l'affitto è una cosa che devi continuare a pagare. E questo porta poi negli anni a seguire un maggiore aumento delle disuguaglianze, perché chi ha già una casa di proprietà sono coloro che riescono nuovamente ad accedere più facilmente a nuovi crediti e accumulare ancora più case e quindi accumulare ancora più ricchezza, mentre le persone che non sono riuscite a comprare una casa e che quindi sono in affitto si vedono ancora più svantaggiate rispetto alle prime. Posso riprendere da qua? C'hai altri pezzi? Ma non volevo No, andare no, no, no, troppo avanti, io e forse da qua potrebbe essere interessante fare la domanda cosa ha portato questo maggiore accesso al credito ora e quindi non lo dire. so, dici, cioè, come dovevo arrivare? Ma secondo me un dato con cui potrei concludere è che ad ora il patrimonio immobiliare del 10% della popolazione equivale al patrimonio di chi possiede solo una casa. Forse con questo Cioè, concludiamo. patrimonio del 10% della Allora, popolazione. il patrimonio immobiliare del 10% della popolazione equivale al patrimonio di chi possiede una sola casa. Quindi, allora, secondo me un dato che rende bene l'idea di com'è la situazione adesso nel mercato immobiliare è che il patrimonio immobiliare del 10% della popolazione equivale al patrimonio di chi possiede solo una casa. Quindi il 10% della popolazione al momento, ok, e ha tante case quanto tutte le persone che hanno soltanto una casa. Quindi è quasi un monopolio, cioè soltanto una piccola parte ha lo stesso numero di case di tutto il resto della popolazione che ha soltanto una casa, perché chiaramente poi negli anni chi era proprietario di una casa ha continuato a investire sul mercato immobiliare comprando altre case. E infatti un altro dato che rende un attimo l'idea di questa situazione è come negli anni sono aumentate le persone che hanno comprato una casa, cioè le persone che hanno comprato una casa sono aumentate moltissimo, mentre le persone che sono in affitto si sono diminuite, ma non alla stessa velocità. Questo vuol dire che chi aveva già una casa ha continuato a comprarne altre per darle in affitto e chi era in affitto poca parte di quelle persone sono poi riuscite a comprare una casa. Cioè, quindi appunto l'affitto è rimasto costante nel tempo praticamente, Non prettamente proprio costante, costante. è diminuito, ma non alla stessa velocità di chi continua a comprare casa.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ E quindi ora questo sul mercato ha delle conseguenze che poi implicano anche delle conseguenze sul prezzo delle case, perché la domanda di case continua ad aumentare, l'offerta delle case invece non riesce ad aumentare alla stessa velocità, perché chiaramente costruire una casa è molto più lento, e questo fa sì che i prezzi delle case continuano ad aumentare. E questo è un importante strumento finanziario che secondo me penso sia importante capire come, cioè perché i prezzi delle case stanno continuando ad aumentare a questa velocità fuori controllo, e chi è che di questo aumento dei prezzi delle case è agevolato, cioè perché questa cosa sta succedendo, chi in qualche modo controlla un po'. Quindi. Scusa, ti posso chiedere, allora spiegaci un attimo questa parte, almeno io ci metto un po' a capirlo. Nel senso, come come aumentano i prezzi delle case? Ci dici che aumenta il prezzo delle case, e che però l'offerta come. Allora, prima, microfoni spenti, era spiegato molto bene, quindi per questo volevo provare un po' a ripercorrere il ragionamento che avevamo fatto prima. Allora, in tecnicismi diciamo che l'offerta della casa è un'offerta inelastica, e quindi all'aumentare della domanda, la domanda di casa aumenta perché avere una casa è conveniente, è un investimento sicuro, sotto diversi punti di vista. Allo stesso tempo accedere al credito è sempre più semplice per la competizione, quindi i tassi di interesse sono molto bassi. Questo aumento della domanda non è però seguito da un aumento dell'offerta, quindi quando la domanda è più alta dell'offerta, i prezzi in questo caso delle case aumentano, e questo è vantaggioso per chi è proprietario di una casa è terribilmente svantaggioso per chi deve comprare una casa. Perché quindi fondamentalmente continuano ad aumentare i prezzi per quella fascia di popolazione che continua a non potersi permettere una casa. E sempre questi stessi prezzi delle case che aumentano è vantaggioso per quella fascia di popolazione che è molto piccola, che ha già delle case e che li deve vendere, e che vede questi prezzi continuare ad aumentare, che poi è quello che sta succedendo anche ora, cioè i prezzi degli affitti sono molto molto alti, e chi ha quindi le case di proprietà può tranquillamente controllare il mercato. Ma tipo quando dici perché prima secondo me forse come domanda non so se ci sta bene mo, però per questo piano un po' più teorico, cioè quando sti medi proprietari, cioè tipo quello de Rabia che c'ha quei 20 appartamenti lì, così, cioè sta gente so quelli di cui parlavi quando dicevi nell'aumento delle disuguaglianze, cioè a un certo punto chi ha avuto la possibilità di accedere ad altri mutui era chi già aveva avuto, quindi, e quella è proprio quella disuguaglianza, cioè quella alla fine non è che è ricco né di famiglia un palazzinaro, quello si è ritrovato ad avere, mo di lui non mi ricordo, 20 appartamenti e Gina neanche a pagare affitto. Cioè, quindi siamo arrivati a questa disuguaglianza? Beh no, magari cioè, la domanda può essere. Cioè, tu stai dicendo se questa roba qui è complessa. So se è così, e se è così, secondo me ci sarebbe a fare la domanda e che riconnetti. Beh, a me sembra interessante riportare anche solo insomma questo come esempio concreto. Qui quello che si stava provando a dire a microfoni spenti, si stava provando a riportare un'esperienza che ha avuto proprio questa assemblea. Cioè che ha conosciuto una persona che stava sotto sfratto, e che questa persona chi la voleva sfrattare rientra proprio in quella fascia di popolazione di quelle persone che possono permettersi di accedere al credito e di acquisire una casa, giusto? Mentre la persona che veniva sfrattata fa parte proprio di quella maggioranza, sta grande maggioranza della popolazione che invece non può permettersi chiaramente una casa o l'affitto. Posso durare un attimo? Certo. Cioè, secondo me la cosa importante che c'è da capire su questo meccanismo della finanziarizzazione, che già come parola sembra una cosa incomprensibile e automaticamente ci viene voglia di non ascoltare più, perché cioè, sembra che ci sono delle cose in gioco che non saremo in grado di capire, che appunto i tassi di interesse, l'offerta, la domanda, come se fossero tutte cose per esperti. Però in realtà, vedendo poi sul terreno, come dicevano prima le altre compagne, che le cose che vediamo sul terreno sono molto evidenti, nel senso ci sono persone che non sono più in grado di arrivare neanche a pagare un affitto e ci sono persone che continuano a speculare ed accumulare delle case, no? Case, ricchezze e rendite. Ora, questa è la chiave di tutto, nel senso dagli anni 90 in poi la sperequazione è cresciuta, la distanza tra chi ha e chi non ha è cresciuta così tanto da alimentare una serie di mercati paralleli. Cioè chi noi non dobbiamo pensare tanto al proprietario di casa di Gina, che ci avrà 5-6 case e l'ha sfrattata perché ci vuole costruire e riuscire dove ce n'ha 5 a farne 20, e quindi non è solo accaparrarsi case sul mercato, ma anche costruirle e chiaramente non metterle in circolazione a basso prezzo, ma metterle in circolazione a prezzi sempre più alti. Però dobbiamo pensare soprattutto ai grossi operatori finanziari, che sono appunto, quando prima Francesco diceva Enasarco a Roma possedeva, quando, cioè nel momento prima di cominciare a vendere le case, possedeva 17.000 appartamenti. Quindi la distanza che c'è, cioè diciamo tra Gina che ha 0 case e il suo proprietario che per il momento ce n'ha 5, queste due pezzi di società sono molto più vicini tra loro rispetto a quanto non sia Enasarco che ce n'ha 17.000, o la banca che si sta comprando il patrimonio, che si è comprata il patrimonio di Enasarco, che ce n'avrà 100.000 in tutta Europa. Quindi la cosa importante è vedere che la società si sta polarizzando sempre di più. Ci stanno, e non è un gruppo di medi o grandi proprietari che hanno magari 5-10 case, ma sono enormi strutture finanziarie che si accaparrano migliaia e migliaia di immobili, e avendo il monopolio degli immobili, perché appunto quello che diceva lei del 10% della popolazione rispetto a chi ha una sola casa, questo è importante, nel senso anche se a noi ci continuano a raccontare la storia dell'Italia come paese dei proprietari, quello che conta non è se si è o non si è proprietari, ma chi ha il monopolio di queste proprietà. Se le proprietà sono tutte concentrate in poche mani, queste poche persone o queste poche strutture sono in grado di decidere i prezzi di tutte le case di tutti quanti, sia chi deve affittarla sia chi la deve comprare. Questa è la cosa importante, cioè questo è proprio come funziona il mercato, nel senso prima sembra libero, uno compra una cosa, un altro compra un'altra, e c'è la grande, no, come si può dire, questo mito del liberismo, no, in cui tutti siamo la libera iniziativa privata, ci fa tutti felici. Nel giro di nulla si crea il monopolio, si creano i cartelli e i prezzi delle cose non sono più determinati dalla legge della domanda e dall'offerta, ma sono determinati da chi possiede il monopolio di un settore. Questo succede sul petrolio, succede su tutti i beni, diciamo, che muovono, sul tabacco, su tutti i beni che muovono l'economia, e naturalmente succede sull'immobiliare. Questa è la questione principale che è successa. In questo momento i prezzi delle case salgono non perché ci sia una legge della domanda e dell'offerta che li fa salire o scendere, ma perché ci sono un gruppo grosso di investitori finanziari che in tutto il mondo ha puntato esclusivamente sull'immobiliare. Non si punta tutti i soldi del salvataggio delle banche del 2008, che potevano andare a riattivare le industrie, a far ripartire, che ne so, piccoli commercianti o quello che era, a finanziare la sanità, eccetera, eccetera, sono andati tutti in strutture finanziarie che hanno investito tutto sull'immobiliare, per cui paradossalmente dopo il 2008 è esplosa di nuovo la costruzione, cioè si sono costruiti quartieri interi, città intere, dappertutto. Qui a Roma abbiamo avuto il piano del piano regolatore del 2008, cioè in piena crisi hanno costruito un altro terzo di città fuori dal raccordo, mentre la popolazione non saliva. Quindi questa cosa ha creato una differenza tra le risorse esistenti e la possibilità di acquisto delle persone, che è diventato proprio il motore di un nuovo ciclo di speculazione. Questa, secondo me, questa è la cosa importante. Non è una cosa tanto difficile da capire, non è una cosa per esperti, è una cosa evidente, anche no? Per come raccontava, insomma, il mutamento della città, forse anche quello era abbastanza evidente, cioè come hanno costruito un terzo di città, dicevi, no? la popolazione non è aumentata. Esatto. E dall'altro caso immagino già c'erano in realtà anche delle case vuote, cioè già c'erano, certo, le costruzioni di conseguenza, anzi, certo, già c'erano le costruzioni sufficienti, le case sufficienti per le persone che... Sì, chiaramente ci sono stati pure le famiglie sono più piccole, magari le coppie si separano, prima abitano in una casa, ora abitano in due case, cioè comunque cresce un pochino la richiesta di case, cresce, però la quantità di case che sono state costruite a Roma dal 2008 in poi, cioè tutta la corona del raccordo Bufalotta, come si chiama, Porta di Roma, Bufalotta, Ponte di Nona, adesso questa estensione sta arrivando a Santa Palomba, Aprilia, nel senso la città continua a estendersi costruendo case come se non ci fosse altro strumento per produrre ricchezza. E contemporaneamente le case rimangono vuote, perché conviene di più tenere una casa vuota e inserirne sul mercato soltanto pochissime quantità in modo che i prezzi rimangano alti, piuttosto che far incontrare la domanda e l'offerta. Quindi questa è una cosa molto semplice in realtà da capire, cioè io faccio sempre l'esempio delle mascherine, cioè, vi ricordate all'inizio della pandemia ci stava questo mito di che c'era gente che aveva la mucchina e le mascherine e le metteva in vendita a 10 euro, a 7 euro per farci soldi sopra e tutti, ah, scandalo, ma questi sono dispositivi di, come si chiamava, di salute, protezione individuale, non potete specularci sopra. E sono stati puniti gli imprenditori che facevano questo, si chiama dumping, no? Beh, con le case è il funzionamento normale del mercato, nel senso si dà per scontato che chi possiede 17.000 case possa metterle sul mercato a volontà, una alla volta, due alla volta, 10 alla volta, e mantenere tutti gli altri per gli scambi interni tra gruppi finanziari. Questo è il caso di Enasarco. Torniamo anche a quello che si diceva l'altra volta, cioè a come la costruzione di casa, il piano casa e tutte queste cose qui in realtà giustificano molto di più la volontà di profitto piuttosto che la necessità di, cioè la volontà di voler sopperire appunto alla necessità delle case. Ma qui siamo anche oltre, nel senso, questo è, diciamo, il meccanismo classico del capitale in cui tu sostituisci il valore di scambio al valore di uso, no? Per cui una casa per viverci è il valore di uso e una casa per venderlo, affittarla, è il valore di scambio. Ora, chiaramente siamo tutti anticapitalisti, per cui noi già questo ci fa orrore, il fatto che una casa sia usata per venderla invece che per abitarla, ma qui siamo un orrore di livello ancora superiore, nel senso, in questo momento le case non sono neanche più costruite per essere vendute o affittate, sono costruite perché stiano sui bilanci delle società, cioè Caltagirone possiede un enorme numero di case che stanno semplicemente nel suo bilancio e non gli interessa venderle o affittarle, affitta e vende quelle che gli interessa per mantenere quei prezzi alti, ma la ragione per cui costruisce le case è perché, avendo a bilancio un certo numero di immobili o di metri quadri, non so come si calcolino, può ottenere altro credito dalle banche e questo credito gli permette di costruire altre case, per cui è un valore che non è neanche più valore di scambio, cioè come il valore di scambio è un potenziale valore d'uso, il valore finanziario è un potenziale valore di scambio, ma non è importante. Per questo spesso si vede un palazzo di uffici vuoti e si dice, ah, poverino, quello ha fatto, quello che l'ha costruito ci ha perso perché non l'ha affittati, non gli frega niente di affittarli, quelli fanno valore in sé, non c'è più neanche bisogno di affittarli e venderli. E questo è il meccanismo per cui il valore che si sta costruendo è un valore totalmente fittizio che non ha più a che vedere neanche solo sull'abitare, ma neanche più sul vendere e sull'affittare. Per cui il vendere e affittare rimangono in mano di chi ha accesso a queste enormi quantità di soldi, no? In America dicono wall of money, cioè un'enorme quantità di denaro che sta in poche mani e che viene gestito soltanto perché si riproduca e cresca, mentre la grande maggioranza della popolazione deve basarsi o su quello che ha comprato, se è riuscito a comprare finora, o su nulla. Ci fermiamo un attimo. Sì. No, io posso fare una domanda collegata a questo. Cioè, ma allora scusa. Fammi fermiamo solo perché era più facile poi riprendere le registrazioni. Certo. Vabbè, io lo dico, poi se lo tagliamo. Cioè, vabbè, dico. Cioè, la vuoi fare? No, dai, ferma. Perché no? Non volevo. Intanto stiamo registrando tutto qua. Riprendiamo? Sì, io un po' allora a questo punto mi chiedo, visto che queste questioni sono sicuramente complicate per chi magari non le mastica con maggiore frequenza, però allora tendenzialmente, da quel che io so, nelle mie limitatissime conoscenze economiche, il fatto di mantenere alta una domanda serve per aumentare il valore quando il valore dell'offerta, cioè per aumentare il valore dell'offerta, se c'è una domanda alta e l'offerta è più bassa, c'è un guadagno di più, un guadagno maggiore per chi per l'offerta, no? In questo caso però mi sembra di aver capito che non parliamo più in questi termini, parliamo nei termini per i quali la domanda alta in realtà non è necessaria ad aumentare poi il valore dell'offerta, quanto più è il risultato di una dinamica che pone la domanda proprio al di fuori della dinamica, cioè in questo, visto quello che hai detto, mi verrebbe da dire che il fatto che ci sia gente che non ha casa e che quindi ha una domanda di casa non potrebbe essere, cioè ad esempio lo Stato, le istituzioni potrebbero in realtà provvedere a questa domanda. Perché? Perché non serve, ammesso che non siamo anticapitalisti, dicevi chiaro e tondo prima, però non neanche a dire che è fine a un sistema che prevede il rapporto tra domanda e offerta. Quindi perché poi alla fine la gente si ritrova senza un appartamento se quello non è neanche funzionale alla produzione di un valore nel rapporto tra domanda e offerta? Guarda, io non sono un economista, quindi adesso tra l'altro manderei un paio di audio registrati da persone che stanno lavorando più direttamente proprio sulle questioni del mercato finanziario e che ci possono spiegare, cioè, sono quelli che abbiamo mandato nell'autoformazione a 100 celle aperte il mese scorso, quindi c'è Simone Tulumello che insegna a Lisbona e che ci fa un po' un quadro, ma in 5 minuti, e poi c'è un compagno dell'assemblea dei sindacati inquilini di Barcellona che ci spiega la battaglia loro contro alcuni gruppi finanziari in particolare. Però per dire quello che io credo che stia succedendo è cioè, la questione della domanda e dell'offerta, cioè concentrarci sulla questione della domanda e dell'offerta ci fa pensare che il mercato sia una cosa autonoma che funziona da che esista un mercato. Cioè, l'idea del mercato, che è una metafora, nel senso che il mercato è portaportese, cioè quello che c'è in questo momento, quello che gestisce le case, non è un mercato tipo portaportese, nel senso che io c'ho un coltello e lo vendo e quello viene e lo compra e decidiamo quanto voglio guadagnare io o quanto vuole vendere io. Non funziona in questo modo. Cioè, la metafora stessa del mercato è fuorviante. Qui quello che ci stanno sono delle potenze istituzionali, ci stanno gli stati, ci stanno le banche centrali che determinano il movimento dei prezzi, delle domande e delle offerte. Cioè, non, l'idea del neoliberismo per cui lo Stato non deve intervenire e il mercato si regola da solo è soltanto uno specchietto per la lodole, nel senso le cose non stanno in questo modo, e la questione di Anasarco ce lo dimostra chiaramente. Cioè, se le persone di Anasarco devono protestare per non essere sfrattate, non è per la domanda e per l'offerta, è perché dagli anni 90, come spiegava prima Carlotta, c'è stato un processo di cartolarizzazione degli immobili, cioè lo Stato ha tolto attivamente delle barriere che impedivano a delle strutture costruite dallo stesso Stato di speculare. E il caso di Anasarco è perfetto, nel senso, Anasarco è stato costruito perché gli è stato permesso di accumulare un'enorme quantità di case con una serie di come si dice, di protezioni, nel senso tu puoi avere 17.000 case ma non le puoi vendere, non ci puoi speculare, non puoi fare una serie di cose perché sei un fondo previdenziale, quindi devi avere soldi per pagare la previdenza sociale e le pensioni ai tuoi affiliati. A un certo punto, dagli anni 90 in poi, gli sono state tolte tutte questi requisiti, richieste, che vincoli che lo Stato gli imponeva, e quelli che hanno fatto hanno speculato in borsa e hanno perso, mi pare, non mi ricordo se 780 milioni di euro di soldi dei propri contribuenti, non di soldi, cioè non è che un riccone che investe, è un istituto che prende la previdenza sociale di tutti, in questo caso gli operatori, come si dice, i cosi di commercio, i rappresentanti di commercio d'Italia, che sono tipo 400.000, sono gente benestante che mette parecchi soldi in previdenza sociale, tutti questi soldi prima dovevano essere tenuti per poter fare le pensioni, e dopo diventano fondi con cui investire. Per cui lui investe in borsa, perde nel crollo di Lehman Brothers, perdono quasi 1 miliardo di euro e decidono di rifarsi vendendo gli immobili. No? Però come vendono gli immobili? Se li vendono ai loro, cioè se li vendono a altri speculatori e altri gruppi immobiliari con cui vogliono fare gli affari, li svendono, tanto non sono soldi loro. Li svendono e quindi creano meccanismi clientelari. Se li provano a vendere, se li vogliono comprare invece gli abitanti, gli mettono prezzi esorbitanti di mercato. Per cui Enasarco è proprio chiarissima, perché Enasarco ha provato a vendere tutti i suoi immobili a un palazzinaro che si chiama Ricucci, e gli vendeva tutto il suo patrimonio a meno di 2 miliardi di 2 miliardi di euro. E nel momento in cui si è scoperto che c'erano tutto un giro di tangenti, per cui alla fine è caduta questa cosa, perché i direttori dei dirigenti di Enasarco avevano preso le tangenti da questo stesso, insomma, questi casi scandalosi dei primi anni 2000, alla fine ha detto va bene, lo vendo agli inquilini, però per i prezzi che gli faceva agli inquilini ci avrebbe tirato fuori 6 miliardi, per cui lui aveva venduto a meno di un terzo, quindi in svendita all'altro palazzinaro, e invece cercando di estrarre il massimo della rendita dai poveracci che vivono nelle case in cui già abitano, capito? Quindi è evidente. Poi alla fine l'ha venduta, sta vendendo a BNP, BNL, BNP Paribas, chiaramente di nuovo a prezzo basso. Quindi cioè, non è il prezzo di quelle case, non esiste il prezzo di una casa di Enasarco. Non ha un valore in sé, c'ha valore soltanto nel meccanismo clientelare che vuole esercitare il proprietario, e questo meccanismo dipende dai permessi, dalle licenze, dai vincoli che gli mette lo Stato. È lo Stato che sta facendo tutto questo, non sono i piccoli, i medi proprietari o le banche, cioè sono sicuramente le banche, ma è lo Stato che permette che succeda tutto questo. La finanziarizzazione è un meccanismo istituzionale, non è un meccanismo del mercato. Questa secondo me è una cosa importante da sapere. Anche che di pensione, no? Tipo hanno iniziato di... è un fondo di pensione? Sì, sì, sì. Ah no, ok. Allora, le attività... No, io a questo punto, se hai voglia, chiederei invece a te, che diciamo hai un po' più di capacità tecniche nell'ambito dell'economia, se ci volevi raccontare qualcosa di quanto appena detto. Finanziario, cioè come in realtà la risposta è mi sono persa. Lui che domanda ha fatto? No, lui ti ha chiesto in generale se dici qualcosa in più. E tu però stavi dicendo, volevo parlare sì di cioè come il bene immobile è diventato un bene capitale, che quindi ha un valore all'interno del mercato secondario, che è il mercato azionario, quindi non ha più un bene economico, un bene in qualche modo reale e tangibile, ma questo bene è determinato e controllato da dinamiche di mercato, e per poter capire anche in qualche modo scardinare questo sistema, un esempio, uno strumento che viene usato spesso dagli investitori istituzionali, quindi dalle banche, dalle assicurazioni, dalle grandi società industriali, ma soprattutto dai fondi immobiliari, è quella che nel tecnico viene chiamata la mitigazione del rischio. Quindi nel momento, provando a spiegare in parole semplici, nel momento in cui le persone fanno domanda per un mutuo, devono lasciare all'istituto in questione una garanzia, che molto spesso è l'immobile stesso. E, dato che in caso di fallimento questo immobile verrà pignorato, e quindi ritornerà all'istituto in questione, quello che è stato legalizzato dallo Stato all'inizio degli anni zero è, tramite la creazione di alcuni istituti chiamati istituti di veicolo, la possibilità di poter accorpare tutti questi mutui in un portafoglio azionario. E i mutui vengono accorpati a seconda del rischio, quindi mutui molto rischiosi, quindi con poca probabilità di essere ripagati, sono affiancati a mutui meno rischiosi o mutui sicuri, quindi con una grande probabilità di essere ripagati, e vengono poi istituiti e quindi venduti nel mercato secondario come delle obbligazioni. Le obbligazioni sono delle azioni che hanno un basso tasso di interesse ma che sono molto sicure, quindi hanno una grande probabilità di essere ripagate. E questi tassi di interesse che vengono pagati non sono altro che i tassi di interesse delle persone che pagano il mutuo stesso, quindi la banca si ritrova a ricevere un tasso di interesse dalle persone che hanno acceso un mutuo, e parte di questo tasso di interesse, una parte molto piccola, viene poi ridata agli azionisti sul mercato, quindi loro sono scevi da qualsiasi tipo di rischio e hanno un'entrata molto sicura. Questo ovviamente, come prima, porta a maggiori disuguaglianze, perché le persone che riescono ad arricchirsi, in questo caso questi grandi investitori istituzionali, hanno questa semplice entrata molto sicura e sempre più grande, mentre quello che poi rimane, quindi quello che succede alle persone, è che nel momento in cui non riescono a pagare il loro mutuo e quindi casa loro verrà pignorata, per loro è un grande problema, ma per le banche questo problema è minuscolo, perché tutti questi mutui fanno parte in una misura molto piccola di un'azione dove all'interno ci sono tanti altri mutui, quindi la perdita per loro è minima, se non nulla. Infatti questo è proprio il meccanismo con cui è crollato il mercato azionario nel 2008, nel senso, cioè, l'accorpamento dei debiti in pacchetti e la vendita di questi pacchetti in mercati secondari. Però, senza andare troppo nello specifico, secondo me la cosa interessante è pensare che una volta che un mercato è saturo, nel senso che è già nelle mani di poche persone, si deve necessariamente creare un altro mercato su cui fare altri guadagni, e quindi si crea il mercato secondario, il mercato degli NPL, per esempio, in cui appunto tutti i crediti non esigibili, tutte le case pignorate, eccetera, eccetera, vengono accorpate nello stesso modo in grossi pacchetti e vengono pure quelli rimessi sul mercato un'altra volta sotto forma di crediti, appunto, grossi pacchetti di case o cantieri o terreni che non, su cui non è più possibile fare profitto nel modo. Ma si può comunque ottenere un guadagno tramite il mercato finanziario. Esatto, e questa è la cosa interessante, è che la conseguenza naturale di questo processo è che le ricchezze si concentrano sempre di più e tutti i beni finiscano nelle mani di chi ha accesso illimitato al credito. E qui la cosa interessante è che dobbiamo pensare che in questo, siccome il mercato è globale, ci sono degli attori che hanno un accesso infinito, una capacità di accesso al credito infinito, che sono i fondi immobiliari statunitensi. Cioè, negli Stati Uniti ci sono una serie di investitori istituzionali che sono enormemente più grandi e più potenti delle banche italiane o europee, perché hanno un contatto diretto con la Federal Reserve, con i fondi federali statunitensi, e noi sappiamo che negli Stati Uniti è l'unico paese che può continuare a stampare denaro, perché essendo tutta la sua economia legata al mercato del petrolio, e il petrolio, le transazioni sul petrolio sono in dollari, quindi loro possono continuare a stampare e a iniettare denaro nelle banche, nel mercato finanziario. Quindi, e noi già lo stiamo vedendo, cioè in Italia tantissime già ci sono immobili che stanno finendo nelle mani di fondi come Blackstone o Cerberus, o questi enormi fondi finanziari che in altre parti d'Europa hanno già in mano una grande parte del patrimonio residenziale. E questa cosa cambia tutto, perché per quanto noi siamo abituati a confrontarci con i piccoli speculatori locali, cioè con Armellini, con Caltagirone, Scarpellini, Pulcini, tutti questi ini, no? che ci abbiamo, ma sono proprio ini di fronte a quello che sta arrivando con questi meccanismi, che sono meccanismi propiziati dalla Comunità Europea, dai governi statali, e che fanno il possibile perché diciamo che il monopolio si estenda e finisca tutto sempre di più nelle mani di enormi strutture finanziarie. Dico una cosa, poi magari vediamo se infilarla o come infilarla. Però da quello che dicevi prima, sembra a me, nel mentre in cui parlavi di frontiera, di Blackstone, di questi grandi attori che si muovono, mi è proprio venuto in mente un po', ritornando al passato, a 400-500 anni fa, proprio ad esempio il ruolo della VOC, cioè nel momento in cui c'erano questi attori, quindi siamo nel diciamo 1600, questi attori non direttamente statali, compagnie private che però avevano un forte legame invece con quelle, in questo caso parliamo dell'Olanda, con elementi, con le istituzioni dell'epoca, lo stato dell'epoca, che per allargare, in quel caso per allargare le frontiere del guadagno, della produzione di surplus, andavano a sfruttare da una parte le risorse di altri paesi, e quindi in quel caso andiamo verso l'Oriente, e il lavoro, in quel caso in termini proprio schiavistici, neanche sfruttamento della forza lavoro, delle persone che si trovavano là. All'oggi questa roba, per una serie di ragioni, risulta un po' cambiata, nel senso che poi magari tante zone in cui si può ancora sfruttare la materia extraumana magari non rientrano nel campo egemonico, che ne so, degli Stati Uniti e di tutta una serie di attori, e quindi fanno sì che ci sia una difficoltà nello sfruttare determinate aree o regioni del mondo, oppure che ne so, il Polo Nord, che per tutta una serie di ragioni è difficilmente sfruttabile in quanto alle sue, rispetto alle sue risorse, lì per questioni climatiche e difficoltà nel, magari non lo so, nell'estrarre petrolio e via dicendo. E quindi da quello che dice, a me mi verrebbe un po' da pensare che appunto queste nuove frontiere non sono frontiere materiali reali, anche se poi come nel senso del picchetto è proprio intervenire dove quella roba si fa materiale, però queste frontiere invece diventano totalmente virtuali, quindi la produzione di quei valore sul valore avviene in termini virtuali. Dove non c'è valore ne attribuisco uno o lo modifico e poi cerco di investire su quello, e quindi a quel punto è nella trasformazione ad esempio dell'ambiente urbano che questi grandi attori paraistituzionali, mi verrebbe da dire, non so se è corretto, però che alla fine vanno a guadagnare, cioè nell'attribuire un valore a quella che è la vita delle persone, perché poi è strettamente collegata all'ambiente in cui uno poi si trova a vivere, e nella trasformazione di quell'ambiente, e quindi nella produzione di un'ennesima frontiera che poi viene poi costruito il valore. No, secondo me, quando tu hai tirato fuori il 600, il 700, secondo me è importante avere presente quel periodo, perché secondo me uno dei termini che possiamo usare per descrivere quello che sta succedendo è proprio quello delle recinzioni, che è il meccanismo iniziale, diciamo, del capitalismo, no? Per cui beni, strutture, terre che servivano per la sopravvivenza, veramente per la riproduzione di gruppi sociali, paesi, comunità, eccetera, vengono recintate sia fisicamente che metaforicamente, perché se ne appropriano quelli che Polanyi diceva i signori e i nobili, no? Che sconvolgono, diciamo, le consuetudini che facevano sì che per esempio in quella foresta poteva prendere il legno soltanto chi apparteneva a quella comunità, ma tutti quelli di quella comunità, o che in quel fiume si poteva andare a prendere acqua, o che in quel pascolo si potevano portare gli animali. queste regole vengono sovvertite grazie all'appoggio del potere politico, cioè dei re, e quelli che erano appunto i beni comuni vengono trasformati in strumenti di profitto. E questa è la famosa accumulazione originaria del capitale, no? Che c'è in Marx. La cosa interessante è che dagli anni 80 in poi molti studiosi marxisti hanno cominciato a mettere in luce il fatto che l'accumulazione, che la recinzione non sia un processo originario del capitale, ma un processo continuo. Cioè il capitale funziona da una parte producendo, diciamo, ricchezza, ma in gran parte appropriandosi di ricchezze già esistenti e trasformandole in nuovi strumenti di profitto. E questo avviene, naturalmente ci sono delle applicazioni di questo che sono proprio, cioè, ti fanno scoppiare il cervello se ci pensi, tipo appunto Silvia Federici che spiega l'accumulazione di capitale sul corpo delle donne, oppure l'accumulazione di capitale attraverso l'espulsione del sapere femminile e l'accaparramento da parte degli uomini, dei medici, della scienza, di tecniche che erano del popolo in qualche modo. Ma questo continua ad avvenire, magari adesso lo chiamiamo land grabbing, però è la stessa cosa, cioè sono le recinzioni. E la cosa che a me sembra interessante rispetto a tutti i fenomeni che descriveva prima Carlotta, tutti questi si possono vedere come forme di recinzioni, anche le cartolarizzazioni è una recinzione, cioè quando tu hai decine di migliaia di case che sono fatte perché la gente ci possa vivere a prezzi più o meno normali, e all'improvviso lo Stato dice ok, mo con queste case voi che eravate i gestori potete venderle o affittarle o farci quello che vi pare come se fossero vostre, e questa è proprio una recinzione, nel senso si prende un pezzo di bene comune, anche se comune, diciamo, fa parte del welfare. Noi i beni comuni ce li immaginiamo come una cosa mitologica, ma bene comune è pure la salute, cioè pure un ospedale è un bene comune, pure una scuola, e si trasformano in strumenti di profitto. E questa cosa avviene a così tanti livelli che ci riesce difficile stare al passo con i tempi, nel senso succede in continuazione e soprattutto produce esattamente le stesse conseguenze che produceva nel 500 e nel 600, cioè l'impoverimento della popolazione che dipendeva da quelle risorse. Prima dipendeva dai pascoli e dalla foresta, mo dipende dalla casa in affitto a un prezzo decente. Queste persone vengono impoverite e finiscono per diventare l'esercito di riserva degli industriali. Nel caso dell'industrializzazione diventavano operai sfruttati, in questo caso qua diventano carne da macello per chi gestisce i centri d'accoglienza, le cooperative che infilano le persone nei palazzi da cui prendono soldi pubblici per tenerli in condizioni precarie, eccetera, eccetera. Quindi vengono espropriati dalle recinzioni e infilati in un nuovo meccanismo di sfruttamento che probabilmente non sono neanche in grado di percepire. Per cui noi in realtà il lavoro che stiamo facendo, noi stiamo brancolando nel buio tutti quanti, nel senso stiamo cercando di prendere pezzi di questo disegno complicatissimo che ci è calato addosso e piano piano ricostruire quali sono i passaggi e soprattutto come intervenire. Perché poi la cosa interessante non è che ci interessa teoricamente capire perché esiste la finanziarizzazione, a noi ci interessa capire come fermarla. Cioè, questo, ma poi non è che siamo noi che la vogliamo fermare, cioè nella risoluzione del gennaio 2021 che nominava Chiara l'altra volta del Parlamento europeo, che diceva gli stati devono mettere in opera tutto quello che possono per fermare la finanziarizzazione dell'abitare e tutelare la casa. Poi naturalmente dicono questo e liberalizzano con l'altra mano, quindi ovvio. Però chiaramente noi abbiamo degli strumenti per influire su tutto questo. E uno era, come diceva prima Emil, i picchetti, sono l'occupazione, gli scioperi, lo sciopero dell'affitto è uno strumento che è stato usato storicamente. Nel senso, tutto questo, cioè questo Moloch, che poi finisce per essere, tu lo dicevi prima, finisce per essere pure quello che porta al colonialismo. Cioè il colonialismo è una forma di recinzione fuori dalle frontiere, no? E quindi che cos'è la guerra a Gaza? È una recinzione, nel senso che stanno facendo, stanno cacciando gli indigeni e prendendosi le terre, esattamente come hanno fatto nell'Ottocento no? I cowboy, esatto. Però in questo momento noi abbiamo abbastanza informazioni da poter connettere questi pezzi e dire tutto questo si regge sul fatto che noi paghiamo l'affitto, paghiamo i mutui e paghiamo le tasse. cioè il giorno che non si pagheranno gli affitti, gli mutui e le tasse, tutto questo sistema crolla, perché non c'è un altro modo per estrarre, a meno che non si ritorna chiaramente alla coercizione fisica e ai metodi, che è probabile, però diciamo la scelta è anche in mano nostra, nel senso noi mettendo i nostri corpi di fronte a un picchetto o evitando di finanziare la guerra, l'espropriazione e le recinzioni, possiamo dare, cioè mettere un blocco a questo sistema. Poi che cosa succederà? È difficile dirlo. Mi sembra, ecco, una spiegazione anche in più rispetto a quello che dicevamo all'inizio. Nel senso, chi sono quelli che occupano e chi sono quelli che fanno i picchetti, oppure appunto anche cioè sono delle sacche di resistenza a tutto quello che, appunto, tutto questo processo enorme che sta avvenendo. Sì, poi per esempio tu prima nominavi la questione di Don Bosco, di Cinecittà Don Bosco, che è proprio chiaro, nel senso lì queste provocazioni di Striscia la Notizia nelle case occupate a Don Bosco e al centro sociale Cortocircuito, insomma è evidente che lei stava cercando di avere la stessa reazione di Roberto Spada con Daniele Piervincenzi a Nuova Ostia, nel senso di fare lo scoop mostrando la violenza eccetera eccetera, infilandoti a casa delle persone e cercando di, no, di... però d'altra parte è come Salvini che suonava per dire lei spaccia droga, insomma sono questi mezzucci di giornalisti, sì, proprio la miseria del giornalismo che cerca di... Però la cosa interessante è che un giornalista vero, un giornalista d'inchiesta, andrebbe a capire perché quei palazzi sono occupati. Cioè tu non puoi, voglio dire, io sono un ricercatore sociale, ma non ci vuole un ricercatore sociale per capire che se tu devi capire una cosa non puoi andare a suonare e dire ma voi siete violenti. Cioè è chiaro che il modo deve essere un altro, e lì se questa giornalista o qualcun altro volesse veramente capire che cosa è successo, dovrebbe capire che cos'è il quartiere Cinecittà Don Bosco, che è un quartiere che è stato costruito espressamente per queste operazioni dei gruppi, dei fondi previdenziali, che avevano il dovere di investire i soldi dei loro affiliati in immobili e hanno di fatto fatto costruire interi quartieri a Roma. Questi sono stati costruiti con i soldi con i fondi previdenziali di tutta Italia, ma sono stati costruiti quasi solo a Roma, perché il mercato immobiliare a Roma è solido, per cui sono nate centinaia di quartieri fatiscenti, perché tanto loro sapevano che quelle case sarebbero andate ai poveracci e che non potevano protestare, perché il requisito era: dovete investire tutti i soldi in immobili e il 50% di questi immobili dovete darli a gente che ha bisogno di casa, perché non sono immobili per investire, sono immobili dei fondi previdenziali che servono solo per tenere i soldi al sicuro, no? E quindi naturalmente hanno costruito dei quartieri in condizioni disastrose, basta girare per le case IMSS, lì penso che sia via Calpurnio Fiamma, insomma sono zone in cui gli abitanti sì alla fine sono riusciti a comprarli, ma la quantità di lavori che hanno dovuto fare per renderli anche solo abitabili è superiore al prezzo che hanno pagato per riscattarli, per non parlare di quello che hanno pagato fino a quel momento. Quindi chiaramente c'è un'enorme speculazione da parte di strutture che sono ancora statali, come l'INPS, che ha assorbito poi tutta una serie di altri enti eccetera eccetera, e che stanno usando queste cose pubbliche come strumenti di guadagno e di profitto. È chiaro che in questo meccanismo ci siano persone che vengono mandate via dalle case o che non riescono più a pagare e che si trovano in situazioni irregolari e quindi che cadono direttamente nella categoria degli occupanti, ed è ovvio anche che quando poi per 10 anni le persone rimangono senza pagare l'affitto o comunque marginalizzate o gli si taglia la luce è ovvio che poi chi non può, se tu tieni per 10 anni i garage di quella strada, non mi ricordo come si chiama, che adesso è pedonale in Don Bosco, esatto, se tu li tieni abbandonati per 10 anni chiusi perché ci vuoi fare più soldi di quelli che c'è, è normale che chi sta per strada apra un garage per vivere, perché un garage vuoto per 10 anni è assurdo se di fronte ci sta una persona che ci sta abitando. Non fa male a nessuno uno che apre un garage e ci si mette a vivere dentro, su queste cose penso che siamo tutti d'accordo. Però poi è chiaro che se tu vuoi provocare o creare confusione. Poi naturalmente è chiaro, adesso lì ci stanno i progetti per Cinecittà, pure lì ci stanno investimenti, ci sarà il giubileo e tutto questo, e quindi i media si scatenano contro un quartiere in cui ancora ci sta qualcosa da recintare. Questo mi sembra, vabbè, sono mezzucci, no? È pure uno degli strumenti utilizzati per poi applicare politiche che vadano, politiche securitarie, repressive. Cioè abbiamo visto a Quarticciolo, a San Basilio, ci cioè sono stati, poi più in generale a Caivano, insomma, un po' in tutta Italia, dico, nello specifico questo governo, ma quelli dietro non è, quelli precedenti non si fanno parlare dietro, cioè utilizzano queste occasioni poi per portare i 600 agenti nel quartiere degradato, della violenza e via dicendo, e portano avanti le proprie politiche appunto securitarie. Poi invece vediamo come in tante situazioni, più nello specifico quelle che non hanno sicuramente migliorato le condizioni materiali di persone che avevano lavoro, che avevano problemi arrivare a fine mese a mangiare, vabbè, e via dicendo, in realtà, cioè, che non hanno funzionato in quella direzione, ma che comunque hanno cambiato quello che era un po' l'aspetto di un quartiere, in tanti casi invece sono proprio l'introduzione di una serie di situazioni specifiche. Cioè, faccio l'esempio, che ne so, parlando qua a San Lorenzo, della costruzione del Soho House, che è una catena di alberghi di lusso per artisti e via dicendo, che esiste in tutto il mondo. Quando hanno aperto qua a San Lorenzo, proprio hanno parlato del valore che potesse avere l'apertura di un albergo del genere in un quartiere degradato. Quindi da quel punto di vista, questo nello specifico non so a livello di finanza, non so che ruolo svolge, però la politica in quel caso è stata proprio quella di proviamo ad aprire, come in passato in Nord Europa, in Nord America viene fatto da svariato tempo, tipo che ne so, ad Harlem, a Soho, posti più noti, proviamo ad aprire questi alberghi o comunque case, robe di lusso. E quella roba lì poi influisce nel cambiamento e nella trasformazione di un quartiere. Tante volte abbiamo parlato di gentrificazione come quel primo pezzettino che cambia quello che è l'aspetto di un quartiere, e sicuramente è un pezzettino essenziale quello della gentrificazione. Però in realtà quello che è un po', parlando di finanza e del ruolo di un certo tipo di attori, stiamo un po' approfondendo è di come, non so se sia il pezzettino iniziale, comunque un pezzettino di un qualcosa di più grande, cioè quella roba svolge un ruolo, però poi ci sono un'altra serie di elementi, come parlando di San Lorenzo può essere la presenza dei studenti e studentesse, essendo un quartiere appunto universitario vicino alla Sapienza, cioè sono tanti gli elementi che poi vanno a costruire poi quello che è il quadro che abbiamo provato a descrivere fino adesso, e non sono invece al contrario la parte centrale. Parlare di gentrificazione non è parlare del nocciolo del problema, è parlare di una declinazione, di un'esplicitazione in contesti specifici dello stesso problema, oppure la studentificazione, se così si può dire, di determinati quartieri. Si potrebbero fare anche altri esempi, però questo... No, su San Lorenzo è per me evidente, nel senso, se uno passa sulla tangenziale e vede questo mega palazzone che stanno costruendo, che è lo Student Hotel, viene subito da chiedersi: ma chi è che ci viene a affittare le stanze qua? Nel senso, se tu sei uno studente straniero e c'hai 800 euro per una stanza in affitto, ma vai a vivere con la vista sulla tangenziale o vai a vivere a Piazza Navona? Cioè, no? E infatti io so che all'inizio Unicredit manco gli voleva dare il credito, perché è follia costruire uno Student Hotel tra il deposito dell'ATAC, la tangenziale e la sopraelevata. È evidente che lì adesso, poi può essere pure che si riempirà in futuro, ma adesso il valore non viene costruito perché ci sta la domanda degli studenti che vogliono vivere sulla tangenziale. Lì il valore si costruisce perché loro hanno avuto un accesso al credito, e questo credito gli permette di mettere altri immobili nel loro bilancio, e gli permette di magari avere altro credito per costruire un altro Student Hotel da un'altra parte. Probabilmente tra due anni, quando lo Student Hotel sarà finito, a Piazza Navona puoi avere un affitto di 1.400, quindi 800 euro per vista sulla tangenziale diventa quasi una grande offerta. Io mi avvicinerei comunque verso la conclusione. Quello che pensavo è, non so se tu volevi aggiungere qualche cosa su quanto ho appena detto. No, secondo me è stato tutto. No, ci stiamo. Sì. Ok. Allora mi fermerei. Che cosa. Come vogliamo concludere? Io una cosa in conclusione ce l'avrei. Ok. Cioè, brevemente del fatto. Cioè, che questa roba ci serve perché. Perché. Cioè, il mondo della casa, dell'abitare, sta cambiando. Gli strumenti di lotta che abbiamo utilizzato, non noi nello specifico, i movimenti di lotta per l'abitare, fino a qualche anno, cioè quello che si è detto in una svariata occasione, cioè hanno avuto un ruolo rispetto a quel contesto. Nel momento in cui cambia il contesto, dobbiamo relazionarci con questo. Capirlo non ha fine a se stesso, ma ci serve per costruire delle rotte che influiscano realmente, anche se si parla di Blackstone. Più o meno questo. E per te va bene oppure secondo me sì, non aggiungere altre cose troppo. Sì, semmai possiamo fare dei stacchettini in cui diciamo introduco questa canzone o introduco questo audio, no? E poi sì. Li mettiamo. Sì, sì. No? Okay. Allora, secondo me. Che magari falla tipo a domanda. Ma cioè, qual è il valore di sapere tutto? Che ne sa, giusto? Per fare okay. Un aspetto carino. E poi diciamo pure che la prossima trasmissione si subirà. Ah, sì, certo. Infatti su me con la cosa che mo abbiamo detto ora che hai citato Piazza Navona, infatti quello che volevo dire era gli affitti a Piazza Navona saranno a 1.400 e quindi 800 euro vista tangenziale è molto conveniente, e che gli affitti a 1.400 probabilmente si apriranno anche per il giubileo, ma di certo. Questo ne parleremo la prossima volta. E faccio al volo sta cosa? Sì. E poi no, aspetta, magari fa prima sta domanda, rispondo, così questa proprio chiude sì. Sul lancio okay. Della prossima, okay. E poi ti chiedo a te sulla prossima. Ok, allora torniamo in voce, insomma quello di oggi vuole essere un pezzettino, uno sguardo un po' diverso sullo stesso fenomeno rispetto alla puntata della scorsa volta. Io quello che vi chiederei in conclusione è un po' ancora di insomma raccontarci qual è il valore di fare questi incontri e cercare di comprendere questi fenomeni. Beh, cioè, per noi il fatto, come prima si è accennato, non è che il sapere in sé per sé come funziona oggi la finanza, come si rapporta al mercato immobiliare, poi come questo influisca su i medi proprietari, i grandi proprietari, i palazzinari e soprattutto chi poi c'ha bisogno di una casa, non è che ci interessa in sé per sé. Ci interessa perché ci siamo resi conto che capire tutto questo vuol dire oggi avere degli strumenti in più per lottare. Ecco, una parte degli incontri che abbiamo fatto nei mesi precedenti riguardavano anche un po', diciamo, hanno un po' un quadro storico. Siamo andati a vedere che cos'era la lotta per la casa negli anni 60, negli anni, diciamo, a cavallo tra la fine dei 90 e gli inizi del 2010, e abbiamo cercato pure di approfondire tutte queste cose attraverso proprio le pratiche che sono state utilizzate nel passato. E all'oggi un po' quello di cui ci stiamo rendendo conto è che la situazione relativa appunto a quello che possiamo chiamare diritto all'abitare, o il fatto che chiunque abbia una testa, un tetto sopra la testa, tutto questo mondo all'oggi sta in parte cambiando, cioè sta subendo delle evoluzioni. Per noi capire quale sia la direzione ci permette meglio di capire noi come ci posizioniamo su degli aspetti e di conseguenza quali sono le più efficaci pratiche di lotta che possiamo utilizzare. Nel corso degli ultimi 3 anni, cioè, abbiamo tentato, diciamo così, più strade, soprattutto conoscendo altre realtà, sia quelle del passato sia quelle del presente che si muovono nel resto d'Italia. Per quello che è un po' la nostra breve esperienza, all'oggi pensiamo che il picchetto in sé per sé sia proprio quello strumento di congiunzione tra quel mondo dei mostri che sembrano, no, Blackstone, quando si parla di entità che si avvicinano a Lucifero, e invece la realtà quotidiana delle nostre città. Il picchetto è quel momento in cui quello che ti sembrava un mostro non diventa un mostro, ma diventa un elemento del sistema, e la persona che viene sfrattata non è quella che viene raccontata dai servizi che vengono fatti sui media, in cui vengono tutti riportati come il violento di turno, il poraccio di turno, ma invece quelle persone sono persone che hanno una dignità e hanno soprattutto la forza di lottare e di non abbandonare, insomma, al primo accesso dell'ufficiale giudiziario il posto in cui magari vivono da 10 anni. Quindi in questo senso questo tipo di sapere per noi è uno strumento di lotta per cercare di trovare delle pratiche che sappiano essere più efficaci, che ci avvicinano di più a cambiare, non soltanto a parlare di diritto all'abitare. In questo senso proviamo a fare un discorso più ampio che riguarda appunto la guerra in Palestina, che riguarda gli investimenti nella produzione di armi, nello sfruttamento dall'altra parte del mondo di non so quale risorsa. Insomma, ci serve, sono strumenti per provare a cambiare in modo radicale il mondo in cui viviamo e come funziona il mondo, e non è solamente limitato al fatto che una persona abbia un tetto sopra la testa. E per noi appunto all'oggi il picchetto è uno strumento che va in questa direzione. Poi ovviamente le nostre assemblee sono aperte, quindi chiunque abbia voglia di venire, di ragionare, ci vediamo tutti i martedì alle 20 a Centocelle Aperte, che si trova in via delle Resede 5, e quindi poi chiunque abbia voglia. Alla luce di questo, allora, abbiamo come proseguiranno i prossimi incontri? Perché appunto ci manca un incontro che sarà giovedì prossimo, se ce lo volete introdurre, visto che sarà anche un tema che comunque coinvolgerà e stravolgerà, o comunque insomma sì, la città di Roma. Sì, giovedì prossimo sarà molto caldo, perché proveremo a vedere quali saranno le implicazioni del giubileo e soprattutto sugli affitti, quindi come cresceranno gli affitti a Piazza Navona e come diventeranno molto convenienti gli affitti a 800 euro con vista sulla tangenziale est. E allora noi ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che sono stati all'ascolto fino a questo momento, e quindi rimandiamo un saluto e ci vediamo settimana prossima. Grazie, ragazzi. Grazie. Dico due cose dei... Vai. Vabbè, se vogliamo fare uno... Aspetta, regista. Se vogliamo fare uno stacco musicale, a me piacerebbe farvi sentire questa canzone di Pino Piras, che è un cantautore sardo di Alghero, che la canzone si chiama Les Fractat ed è in catalano dell'Alghero, ed è un dialogo tra l'amministratore e lo sfrattato. È una canzone degli anni 70. Questa invece è una canzone di Sociedad Alcohólica, che è un gruppo spagnolo che si chiama Pisos Vacíos, cioè case vuote. Pisos Vacíos o case vuote. Vabbè, lo dico con casas. Adesso mi provo a collegarti, immagino c'è la fine di un discorso, okay. Tipo che ne so, brava, dare uno stacco, così la colleghiamo. E a proposito di case vuote, se vogliamo fare uno stacco musicale in tema, questa è una canzone dei Sociedad Alcohólica, che è un gruppo spagnolo, e che si chiama proprio Casas Vacías, cioè case vuote. Ah, aspetta, quello di Andrea. Questa è per capire come stanno funzionando le cose anche fuori dall'Italia. Vogliamo passare un piccolo audio che ci è stato mandato da un compagno dell'assemblea di un sindacato inquilini di Barcellona, che spiega la battaglia contro la finanziarizzazione in questo momento nella capitale catalana, che appunto lì è molto più evidente il potere di strutture come Blackstone e Cerberus, e ci sono delle assemblee proprio contro gli sfratti di Cerberus e contro gli sfratti di Blackstone, e lui lo racconta. E considerate che il linguaggio è il linguaggio itagnolo, catagnolo, italo-catalano, per cui quando lui dice inversori parla di investitori, e inversione vuol dire investimento. Per il resto penso che è tutto molto comprensibile e molto importante.